L'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma: uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:06 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. La tradizione vuole che la sposa porti con sé il giorno del matrimonio 5 cose. Una cosa blu, simbolo di purezza per tradizione. Una cosa vecchia, simbolo della vita passata che non deve essere dimenticata. Una cosa nuova, simbolo dell'inizio di una nuova esperienza. Una cosa prestata, l'affetto e il rispetto delle persone più care nella decisione più importante della vita. È una cosa regalata, il rispetto e l'amicizia delle persone più care che appoggiano in pieno la vostra decisione. In America ci sono matrimoni di vario genere, con usanze diverse. A New Orleans, ad esempio, si festeggia con musiche, danze e due torte. Una per gli ospiti, l'altra invece che contiene 10 oggetti nascosti all'interno, legati con dei nastrini che escono fuori. Si inviteranno le amiche nubili della sposa a scegliere il nastrino. Chi troverà due anelli si sposerà il più presto, mentre chi troverà un ditale rimarrà zitella. In Giappone il rituale matrimoniale shintoista è molto suggestivo. Durante la cerimonia la sposa porta in testa un panno bianco ripiegato che simboleggia la sua intenzione di non mostrare gelosia verso il marito. Gli sposi, con indosso due kimoni particolarmente fastosi, bevono ciascuno 3 volte da una ciotola con dentro riso e sake. Oggi si parla di matrimoni, si parla di rituali legati ai matrimoni. Non so se vi è capitato di sposarvi, non so se vi è capitato di essere i protagonisti di un matrimonio, se vi è capitato di essere semplicemente testimoni di quel matrimonio. Sappiate però che comunque sia andata, oggi voglio sapere quali sono i riti, le tradizioni legate ai matrimoni. Se avete subito, che so io, tradizioni tipo vostra nonna che vi ha obbligato a mantenere dei rituali antichissimi, se avete dovuto fare quarantene, se avete dovuto indossare abiti particolari, dire cose che andavano dette o fatto cose che andavano fatte. Oggi vorrei sentire le più astrose tradizioni legate al matrimonio. Ecco, oggi io sono qui. 800240024 oppure 349-238-6666 per mandare gli sms oppure l'altro per chiamare in diretta. Vi faccio degli esempi. Allora, innanzitutto ringrazio Viola Bottoni che addirittura da un sito che si chiama girlpower.it. Che sito è, Viola? Ma ti pare che mi devi far dire delle robe prese da un sito che si chiama girlpower.it? Cioè, le fonti! Vietnam. In Vietnam scordatevi di mettere abiti bianchi. Questo colore, infatti, è segno di lutto. Il colore che va per la maggiore è il rosso. Corea del Sud. I matrimoni si svolgono nei parchi. Lo sposo arriva accompagnato da parenti e amici a cavallo. La sposa, invece, in spalla su una poltrona coperta da veli. In India. In India la regione Hindu crede che in ottobre le forze del bene siano più forti di quelle del male. Ecco perché i matrimoni si svolgono quasi tutti in ottobre. In Afghanistan, il giorno più importante della vita di due persone che si uniscono, viene festeggiato separati. In Mongolia, lo sposo regalerà alla compagna 3 bauli, uno per la biancheria, uno per il cibo, uno per un ombrello. Significa protezione verso la sposa. Cina, durante tutto il giorno delle nozze, la sposa non può parlare e deve rimanere a digiuno. 800240024 349-238-6666. Perché si parla di matrimoni oggi? Semplicemente perché domenica, come vi racconterò a breve, sono andato a fare un giro con il mio ospite, perché il mio ospite non è partito. Natalia è partita, l'ospite no. Siamo andati a fare un giro e ci siamo infilati in un matrimonio. Era domenica, era una bella giornata, eravamo in campagna fuori Milano e quindi mi è capitato, proprio perché ero con Samir, di dover ripercorrere un pochettino quali sono le tappe e soprattutto i rituali di un matrimonio, direi, tradizionale in Italia. Ho chiesto però alle persone che leggono quello che scrivo la mattina sul profilo Facebook del programma, che poi è quello che accade poi in radio, semplicemente un'estensione di questo programma, Matteo Caccia, io sono qui, quali sono le tradizioni locali, visto che l'Italia è piena di piccole tradizioni locali, di qua facciamo subito un pochettino di linea verde. Anni fa Deborah andai al matrimonio di una cugina in Calabria. Ricordo che il pomeriggio prima delle nozze si tenne un rinfresco nella casa degli sposi. Durante il rinfresco le rispettive madri mostravano il corredo preparato per lo sposo e la sposa. Era d'obbligo per ciascun invitato non soltanto guardare, ma anche tastare le stoffe, esprimere apprezzamento per la qualità, i colori, la varietà e così via. Poi le ragazze non sposate preparavano il letto per gli sposi e gli invitati vi mettevano per buon augurio confetti e altre cose che non ricordo. Mario, vabbè, taglio della cravatta lo sappiamo, lancio della giarrettiera che se ne frega, e poi per ultimo gli sposi segano un grosso tronco insieme. Questa non l'ho mai sentita e non so nemmeno il perché. Donata, vabbè, la sposa deve indossare qualcosa di blu. Lara, giarrettiera blu. E poi Chiara, della Sardegna. In Sardegna un matrimonio, oltre a richiedere un luogo grande per i festeggiamenti, dura ben 2 giorni. Dopo la festa ufficiale, il giorno ci si trova di solito in una casa di campagna, cioè il giorno dopo la festa ufficiale, o comunque in un locale privato. Per un altro giorno si festeggia, si chiama sposareddu, che sta per piccolo matrimonio. Prendono parte gli amici e i parenti più stretti, che sono almeno un centinaio. Amici e parenti più stretti, insomma, si continua a bere, mangiare e cantare. 800240024. Io mi ricordo che avevo partecipato a un matrimonio in Sardegna di un amico di Novara che si sposava con una ragazza sarda, e prima c'era questa roba che avevamo percorso tutta la strada dalla casa dello sposo a prendere la sposa, e c'erano queste signore anziane che spaccavano dei piatti davanti alle porte mentre noi passavamo, e i piatti contenevano, credo, grano o riso forse, e petali, credo anche petali. Qualsiasi sia il rituale a cui avete assistito, da protagonisti a testimoni, 800240 0024 oppure 349 238 6666. Questo invece è il matrimonio a cui ho assistito domenica. Aver ritirato la moto sabato, domenica ci sono andato in giro con Samir. Invece che in città, però, siamo usciti verso la campagna. Ho preso la strada che costeggia il Naviglio fino a Pavia e siamo andati verso sud. Il sole era già caldo e in fondo alle strade di campagna apparivano miraggi d'acqua. All'altezza di Binasco ci siamo ritrovati in un corteo di macchine che suonavano il clacson. Samir mi ha chiesto se il Milan avesse vinto qualcosa. Gli ho detto di no, che era il corteo per un matrimonio. Lui mi ha risposto che in Tunisia i cortei sono molto più colorati, molto più rumorosi di quello lì. E poi ha riso per il fiocchetto di tulle bianco, quello che leghiamo agli specchietti retrovisori. In fondo al corteo c'era una chiesa piccola con un campanile rosso e la gente iniziava ad assieparcisi davanti. Samir ha voluto fermarsi. Io ho parcheggiato la moto e siamo scesi. Lo sposo era davanti alla porta e la aspettava. La sposa, ovviamente. Dopo una decina di minuti, lei è arrivata. Quando la macchina si è fermata sul sagrato, è scesa. È scesa insieme a suo padre. E sembrava 2 volte più alta di lui. Ma soprattutto sembrava raggiante. Sembrava bellissima. Lì mi è venuta in mente mia sorella. Ma com'era bella vestita di bianco. E poi mi è venuto in mente subito dopo Davide Mengacci. Avete presente? Quello rosso di capelli, con la faccia da procione, che faceva sto programma sui matrimoni, su Rete 4. Mi ricordo, quando la sposa scendeva dall'auto, lui diceva sempre a tutte la stessa frase: guarda, sei incantevole. Che in fondo è vero, no? Cioè, la sposa è la vera protagonista delle nozze. Quindi è giusto che tutti lo notino. Lo sposo le è andato incontro, si sono baciati ed è cominciata la cerimonia. Samir ha voluto a tutti i costi rimanere e quindi siamo entrati anche in chiesa. Il prete ha attaccato il sermone. Sembrava un imbonitore, un presentatore di quelle piccole televisioni locali. Agitava le mani, faceva riferimenti a personaggi dello spettacolo. Ogni 2 minuti chiedeva l'applauso degli invitati e loro non si facevano pregare. A un certo punto ha iniziato a citare il Vangelo dicendo: beato il marito di una donna virtuosa, e guardava la sposa con un'aria un po' di rimprovero. Poi si è messa a dare pareri sulla vita di coppia. E io questa è una cosa che non ho mai capito molto bene, cioè il fatto che i consigli a 2 persone che stanno per andare a vivere insieme per tutta la vita, tra l'altro, arrivino da una persona che ha scelto di rimanere da solo per tutta la vita. Voglio dire, se già un uomo comune conosce poco del mondo femminile, figuriamoci quanto ne può sapere un sacerdote, che forse è l'unica donna che frequenta la Perpetua, se esiste ancora la Perpetua. Ecco, allora mi sembrerebbe più giusto che a celebrare un matrimonio ci fossero sempre un prete e una suora, in modo che lui dà consigli alla sposa su come comportarsi col marito e lei li dà allo sposo su come comportarsi con la moglie. Vabbè, insomma, dopo un po' la cerimonia è finita. Samir rideva, applaudiva, e quando il prete lo chiedeva, lui ovviamente non si tirava indietro. Siamo usciti, io mi sentivo un po' fuori luogo lì in mezzo, cioè in mezzo a un matrimonio a cui non eravamo stati invitati. Però la gente intorno non si curava di noi e ci siamo concentrati tutti sugli sposi. Ecco, a quel punto è successa una cosa strana. Mentre eravamo fuori dalla chiesa, con il sole che batteva, il riso che volava, la gente che sorrideva, io ho guardato i 2 sposi che si baciavano e ho capito che, al di là di tutte le promesse appena fatte, al di là delle aspettative, del mio scetticismo, alla fine l'amore è quella cosa lì, che anche se non sai bene dove vai, continui ad andare. Ed è giusto così. Ho preso Samir, siamo saliti in moto e siamo ripartiti. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone finalizzato alla formazione di una famiglia. In alcune culture e paesi è considerato lecito contrarre matrimonio con più di una persona. Tale pratica è invece perseguita come reato nella maggior parte del mondo. Nell'accezione più comune, parlando di matrimonio, si presuppone che le persone coinvolte abbiano sesso opposto. L'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita: uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. La parola matrimonio, secondo una visione diffusa, deriva dal latino matris munus, compito della madre, ma anche da matrem munere, proteggere la madre. L'etimologia quindi indicherebbe una relazione diretta tra l'alleanza d'amore dell'uomo e della donna e il compito della maternità che ne scaturisce. Il concetto di matrimonio è legato a quello di famiglia. I due coniugi formano un nucleo familiare che spesso in seguito si espande con i figli. Il matrimonio è stato tradizionalmente un prerequisito per creare una famiglia, che solitamente costituisce un mattone costruttivo di una comunità o di una società. Perciò il matrimonio non solo serve gli interessi di due individui, ma anche gli interessi dei loro figli e della società di cui fanno parte. Nell'Occidente, la famiglia nucleare, intesa come comunità in cui vivono i due sposi con i loro figli, è sempre stata la forma più comune. La maggior parte delle società non occidentali ha una definizione più ampia di famiglia, che comprende una rete familiare estesa e di cui fanno parte persone di diverso genere. In alternativa, i coniugi possono essere senza figli per infertilità o per scelta. Non è così male avere una persona a cui dover raccontare le usanze del tuo paese, gli aspetti più reconditi della tua cultura. Non fosse altro perché li riscopri anche tu. Quando siamo rientrati in casa dopo aver visto il matrimonio abbiamo iniziato a parlarne. Samir mi ha fatto tante di quelle domande che ho dovuto mettermi a fare una ricerca per potergliela spiegare tutta con calma. E poi ci siamo messi a parlare di noi. Mi ha chiesto perché non avessi ancora sposato Natalie. Mi ha detto che lei era una ragazza meravigliosa, che ci vivevo insieme e non potevo farmela scappare. Io però domenica non avevo voglia di parlare di questo argomento, visto che lei era partita il giorno prima, e sinceramente avrei fatto a meno di pensare al matrimonio, visto che sarei rimasto da solo per 6 mesi. Gli ho chiesto che intenzione avesse lui, e lui si è messo a parlarmi della sua fidanzata, che presto l'avrebbe raggiunto, si sarebbero sposati e avrebbero voluto fare dei figli. E mentre parlava, io mi sono distratto, perché mentre lui parlava è successo. Mi sembrava strano non arrivasse, e infatti è arrivato proprio in quel momento. Mi sono guardato in giro, ho realizzato che Natalie era partita, che la casa era vuota e che mi sentivo triste, solitario e finale. E mentre lo realizzavo, Samir deve aver realizzato anche lui con me, perché mi ha guardato e mi ha detto: «Dai Matteo, andiamo a berci una birra». Era passato un giorno, dovevano passarne ancora altri 178. While my boat is drifting away by the shore of Miami Bay. Oh, I'm still trying to figure out the end of what I was starting to say. Nel Caravese, il giorno prima del matrimonio, gli amici dello sposo spargono segatura per strada dalla casa di lei fino alla casa di lui. Luca, nel matrimonio shintoista la sposa deve essere bianca anche in viso, mentre per vestire bene l'abito tradizionale l'uomo dovrebbe avere un po' di pancetta. Questo secondo la tradizione shintoista, ma anche secondo quella occidentale. Chiedi a Samir se è vero che in Tunisia prima del matrimonio si depilano del tutto. Glielo chiedo, se c'è qualche tunisino all'ascolto e me lo vuole confermare, 349-238-6666 oppure 800240024. Poi Mirko mi spiega: i confetti dovrebbero essere ricoperti di mandorla perché è il dolce dello zucchero dentro e l'amaro della mandorla è il simbolo della vita familiare, dove gioia e dolore devono convivere ed essere accettate. Io sapevo anche che il gusto della mandorla è poi il gusto del cianuro. Così mi avevano spiegato. Avete preso l'autostrada e siete arrivati in Spagna e vi siete sposati, Marco. Ragazzi, siete veramente gli ascoltatori più divertenti della storia della radiofonia. Mia cognata insisteva che lui aveva un matrimonio tradizionale semplice e poi si è sposata con il trattore. Vabbè, ma questo però, diciamo, è goliardia. Ci interessano più che altro le tradizioni legate ai matrimoni. 800240024 349-238-6666. C'è una persona che è all'ascolto e che oggi mi ha scritto un messaggio che diceva così: io sono fotografa, ne vedo di ogni genere, dal taglio della cravatta fino alla sega del tronco, la sposa deve avere qualcosa del blu, eccetera eccetera. Ne ho viste veramente di tutti i colori, il mazzetto della sposa e poi. Pronto Claudia? Ciao. E poi? Ciao, buona giornata. Buona giornata a te. E poi, ciao, buona giornata. E poi di tutto, dalla tradizione agli scherzi. Senti, tu da quant'è che fai la fotografa per matrimoni? Io sono 16 anni. Ma e tu fai proprio la fotografa solo per matrimoni oppure ti capita di fare altro? No, io ho uno studio fotografico nel quale faccio matrimoni, cerimonie e poi comunque al pubblico. Claudia, tu quindi mi stai dicendo che tu hai uno di quei negozi che si trovano per strada che per far vedere che fate le foto per i matrimoni ci avete fuori queste foto con la sposa sorridente e lui pure che si baciano sotto una pianta? No, forse no. Un po' meno tradizionali, spero. Spero di no. Cioè, tra l'altro, noi abbiamo la vetrine, noi siamo poi fotografi di paese, quindi siamo una realtà piccola. Di dove abbiamo sei? Provincia vetrine. Di Lucca dove, Claudia? Castelnuovo di Garfagnana. Castelnuovo di Garfagnana, che è... Garfagnana. È a 40 chilometri da Lucca, vicino Varga, vicino... Siamo la Lunigiana, più o meno. Praticamente tra noi e la Lunigiana ci sono altrettanti 40 chilometri. Vabbè, ok, adesso lascia stare con la geografia, Matteo, deciditene e smettila. Senti, dimmi la cosa più assurda che hai visto fare, non come scherzo, proprio come tradizione, magari una roba toscana o di Lucca. Allora, proprio come tradizione io ho visto in un più che di Lucca, ero in Versilia. Sì. E praticamente la sposa aveva il velo, cioè, che non è, può essere una bella cosa, però loro dicono che il velo se è usato è meglio, e poi se viene da una moglie, cioè praticamente da una signora di una coppia felice è ancora meglio. Quindi praticamente ho visto questa ragazza che ha dovuto riadattare il velo perché non era altissima, che era 1,61 m, della nonna anziana che era 1,82 m, quindi vedevi questa ragazza... Con questo lo vedevi che non era il suo. Giusto nel contesto, non era il suo. Mentre gli scherzi, la cosa più assurda qui da noi è che murano le macchine. In che senso le murano, scusami? Cioè, nel senso che gli amici la sera durante la festa, sì, escono fuori con i, ora noi li chiamavamo bossetti, foratini, ora non so. Vabbè, insomma, i mattoni, quelli bucati. Praticamente alla macchina davanti e dietro fanno una traccia. e poi murano, praticamente tirano su un muro davanti e di dietro, che poi dopo per poter andare via con la macchina devi tirare giù il muro. Devi tirare giù il muro a picconate. Claudia, senti, e poi ti saluto che c'è la borsa, giusto per rimanere in tema. Quanto mi viene un servizio fotografico per un matrimonio? Ascolta, da noi qua si può partire da 1000 euro fino ad arrivare a 2, in città molto più alto. Ok, però tu stai tra i 1000 e i 2000. Sì, tra 1000 e 2000 euro. Una cosa bella completa, sì. Claudia, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao, ciao. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo in un chiostro, che sembra il chiostro di un'università, direi. Lo si capisce perché c'è una bella giornata, c'è una pianta in un angolo del chiostro, e ma soprattutto ci sono ragazzi, studenti universitari. C'è un pozzo proprio al centro, che però è chiuso, e in un angolo ci sono delle persone molto ben vestite, e una di loro ha in testa la coccarda, come si chiama, quello che si mettono in testa gli universitari, con le foglie verdi, non so come si chiami, no, non è il cappello, è proprio il quella pianta lì, la corona d'alloro, eccola lì, ce l'abbiamo fatta. E invece dall'altra parte, proprio quelli che si tengono liberi per prendersi il bel sole in faccia, il bel sole di primavera in faccia, c'è un nugolo di universitari che sostanzialmente non c'ha voglia di fare niente. Alessandro Frau, 23 anni. La tentazione era troppo forte. Invece di farmi ammorbare ad una lezione tenuta da un professore che probabilmente ha l'età di mio nonno, ho deciso di gustarmi un po' di sole primaverile nel chiostro della mia facoltà di ingegneria. E credo di essere stato l'unico. Io sono qui. No, Alessandro, non sei stato l'unico, perché andate a vedere la foto sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui, perché ci sono diverse persone. Certo è che magari se stai a sentire la lezione di tuo nonno, poi non devi studiare quando fa caldo ed è estate. È un po' di moralismo universitario in onda Io sono qui. Tra l'altro mi chiedono dove si trovano i titoli dei brani che mandiamo, tutto sul sito della radio, radio24.it, alla pagina di Io sono qui. Uda mi conferma che le donne tunisine non possono depilarsi fino al matrimonio. Cioè, ma per tutta la vita fino al matrimonio? Sì. Ustia, sì? Vabbè, se lo dici tu. Non possono depilarsi fino al matrimonio, il giorno prima è tradizione che si depilino totalmente. Luis mi scrive invece che è l'arsenico ad avere l'odore della mandorla e non il cianuro, e ti ringrazio. Poi io ho dovuto rifare il letto di nozze, da una vergine, e non è stato facile. Vorrei capire però dove si trovava e soprattutto come l'ha trovata. Pronto, Simona? Ciao, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie per essere qui. Senti, hai dovuto far rifare dopo la prima notte o prima della prima notte? No, prima della prima notte di nozze c'è questa tradizione di dover far rifare il letto degli sposi da una vergine. Ma la tradizione è del viterbese o è italiana? Sì, è del viterbese, di un paesino, si chiama Ronciglione. E come funziona? Che tu vai in giro e dici, scusa... Beh, in teoria dovresti avere un'amica vergine e chiedere a lei di rifare il letto degli sposi. Però non è stato facile trovarla. Ma tu quanti anni hai? Quanti anni avevi quando ti sei sposata? Ne avevo più di 30, quindi insomma le mie amiche avevano più o meno quell'età. Senti, e quindi come l'hai trovata alla fine questa ragazza? Beh, alla fine ho ripiegato sulla cuginetta di 15 anni. Sì? Sì, è stato necessario. Senti, e poi da quant'è che sei sposata? Da 6 anni. E va tutto bene? Sì, benissimo, grazie. Quindi è anche merito della cugina? Sì, infatti l'ho ringraziata. Senti, hai dovuto esporre poi il lenzuolo? Perché mi hanno scritto che c'è una tradizione di questo tipo, un po' come cronaca di una morte annunciata, che va esposto il lenzuolo la mattina dopo? No, assolutamente no. Assolutamente no. Certo, per evitare di correre proprio quel rischio. Simona, ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Ciao, complimenti, ciao. Grazie mille. Lo dicevo perché Vincenzo lo sostiene. Pronto, Vincenzo? Sì, salve. Ciao, come stai? Bene, tu? Senti, io me la cavo. Senti, tu sei di Campobasso. Sì. Che sta notoriamente in Molise. Molise, visto? Ce l'ho fatta. Com'è che voi altri non sapete che Campobasso è in Molise, mentre noi altri sappiamo dove state voi? Voi altri chi siete, Vincenzo? Voi altri in generale. Cioè, come dire... Perché è uno di Como, no? Dov'è Campobasso non te lo sa dire. Quindi voi altri e tutti quelli che stanno fuori da Campobasso? No. No, in generale così. Quanti no? abitanti ha Campobasso, scusami? Com'è, scusa? Quanti abitanti ha Campobasso? Campobasso quasi 70.000. E il qualcosa meno comunque. Ah, ma è minuscola. Sì, vabbè, sì, sì. Però è capoluogo, vabbè, però è capoluogo di regione. Capoluogo di regione, sì. E quanti abitanti ha invece il Molise? Il Molise in tutto sono più o meno un quartiere di Milano, 350.000. Ah, ok. Quindi Vincenzo, perdonami, un pochettino quindi è realistico che voi altri, cioè noi altri, non sappiamo esattamente quale sia il capoluogo. Ah, vedi, c'è così? No, esatto. Poi faremo un documentario, l'anno prossimo facciamo un documentario geografico, tutto sul Molise. Senti, c'è questa tradizione in Molise però, vero? Allora, la stranezza è questa. Un po' come diceva l'altra, la ragazza che è intervenuto poc'anzi, sì, no? Sulla questione di cercare una vergine per rifare il letto il giorno dopo. Da noi in pratica, perlomeno prima, sì, l'usanza era quella che gli sposi, dopo il matrimonio, restassero chiusi in casa per 8 giorni e dopo l'ottavo giorno sì, addirittura esponessero fuori il lenzuolo del matrimonio a dimostrazione della, come dire, della virilità del marito e della verginità della moglie. Ma tu ti sei sposato, Vincenzo? Io li ho bruciate tutte le tappe, cioè... Vincenzo, è una giornataccia oggi, ti sento dalla voce che c'è qualcosa che non va. No, sto semplicemente dicendo appunto che le ho bruciate tutte le tappe, nel senso che ci si innamora, ci si sposa, ci si separa. Ci si rinnamora? Poi ci si innamora, ti dicevo, ci si innamora, ci si sposa, sì, ci si separa e poi eventualmente magari fai altro. E poi alimenti. Quanti anni hai, Vincenzo? Io 47. E cosa fai nella vita? Faccio il costruttore. No, Vincenzo, però non puoi avere questo tono di voce perché mi deprimi, ti giuro. No, non ti deprimere, forse che noi siamo in una zona depressa, allora... Ma figurati, ma siete in pochi, state larghi, esponete le lenzuola. Senti, come va? Si sta riprendendo? No, il punto è questo, che probabilmente, magari da voi non esisteva questa cosa, ma da noi credo che oggi, non lo so, sarà difficile trovare qualcuno che possa riuscire a fare ancora oggi questa operazione. Però, in ogni caso... gli antichi, quella è l'usanza. Vincenzo, ti ringrazio così, soprattutto per aver definito in questa telefonata che ci sono due mondi in Italia: c'è il Molise, beh, e c'è tutto il resto fuori dal Molise. Grazie mille, buona giornata. Come dire che il mondo è fuori e il Molise non è all'interno del mondo, non è così. No, era l'opposto, era l'opposto. Ciao Vincenzo, grazie mille. Irena mi scrive: in Albania il matrimonio dura 3 giorni. Di giovedì la sposa esce a cena o a pranzo con sole donne e fa vedere a tutti quelli che vogliono la sua prica, cioè i doni del matrimonio per quando andrà alla casa dello sposo. Di venerdì non si fa niente, perché venerdì di solito è un giorno di lutto. Di sabato si fa la cena e il matrimonio dalla parte della ragazza. Alla cena del sabato arrivano i genitori dello sposo e un po' di parenti dello sposo e non possono stare alla cena più di un'ora e mezza. Mazza, cos'è? Sono i 10 comandamenti. Poi se ne vanno senza la sposa. Di domenica al pomeriggio arriva lo sposo e i suoi genitori con un po' di parenti, un numero dispari, e prendono la sposa. Dopo 2 ore che la sposa è andata alla casa del marito, i genitori della sposa con zie e zie della sposa fanno: non ci sto capendo più niente, spero di non dovermi mai sposare con un albanese. 800240024, andiamo a Milano da Ezio. Pronto Ezio? Sì, ciao. Ciao, senti, raccontami cosa succede in provincia di Bergamo però. Sì, diciamo nelle valli della provincia di Bergamo, nelle profonde valli, sì, se si sposa prima il fratello o la sorella minore, sì, il maggiore, che quindi è ancora single, deve mangiare la crusca durante il banchetto nuziale. Arriva un certo momento in cui, insomma, deve mangiare la crusca. Deve mangiare la crusca. C'è un motivo? Crusca, sì, sì. Ma diciamo, in particolare non lo conosco, credo che sia per il fatto che, insomma, mentre il più piccolo si è già sposato, il più grande, insomma, deve ancora sistemarsi. Ok, ecco. Okay. Ezio, ti ringrazio molto, ciao, buona giornata. Oh, grazie. Antonio, provincia di Crema, al volo, ciao Antonio. Pronto, è la provincia di Cremona, mi senti? Cremona, anche perché Crema non esiste. Senti, non confondiamo le razze. Ma figuriamoci, guarda, già ho avuto i miei problemi col Molise oggi, ti prego, non crearmene anche tu. Senti, tu hai visto una cosa in provincia di Vicenza invece? Sì, cioè? A Crespano, vicino a Marostica. Sì. Un cugino che si è sposato, un alpino, che a fine cerimonia gli hanno addossato una croce scala 1-1 pesantissima. Io ho provato ad alzarla. Scala 1-1 rispetto a cosa? Alla croce originale, alla proprio croce a quella, ok? E che ne ha fatto? E che ne ha fatto di sta croce? E dalla chiesa se l'è portata a casa. Benissimo. Due chilometri. Antonio, ti ringrazio. Direi che non c'è bisogno di spiegare il perché. Grazie mille, buona giornata. Chiaro, grazie. Ciao. Buona giornata a te. Ciao Antonio. L'ultimo racconto di oggi arriva da Londra e parla di un matrimonio ebreo ortodosso. Quando studiavo a Londra e lavoricchiavo per mantenermi, mi ritrovai a fare la cameriera ad un matrimonio ebreo ortodosso. Dunque, il salone era diviso in due da delle piante alte e bellissime. Da una parte pranzavano gli uomini, dall'altra le donne. Per tutta la durata del pranzo e dei balli non si sono mai incontrati. Anche il personale che serviva ai tavoli doveva essere rigorosamente di sesso maschile o femminile. E poi, prima di cominciare a lavorare, chiesi al rabbino un caffè. Ci capitava molto spesso di bere caffè prima di attaccare a lavorare. E allora il rabbino mi chiese gentilmente se volessi del latte col caffè. Io gli risposi di sì. A quel punto lui mi guardò e mi disse: allora non te lo do. Gli domandai il perché e lui mi disse che probabilmente avrei mangiato della carne alla fine del pranzo e che non potevo mischiare carne e latticini. Gli feci notare che non sono ortodossa e lui mi disse che non aveva importanza, ognuno doveva rispettare le regole in quel posto. Allora gli promisi che non avrei mangiato carne, ma niente da fare. Non si fidò ugualmente. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Qualcuno è preoccupato, mi dice che si può stare bene insieme anche senza il matrimonio. Infatti questo non voleva essere uno spot per il matrimonio. Poi mi dicono che non è così normale sapere dove sono le province italiane e avete ragione anche voi. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?